Lunedì 7 giugno 2004. John Smith era alto, con le spalle larghe e un sorriso radioso sotto gli occhialetti dalla montatura sottile. Indossava pantaloni khaki e una camicia a righe, ormai la tenuta d'ordinanza degli evangelisti di tutto il paese. Gli orli in rilievo della maglietta bianca facevano capolino da sotto la camicia. I capelli biondi, ingrigiti dal tempo, erano stati domati dal classico rasoio regolato sul mezzo centimetro, onnipresente nei negozi specializzati di tutto il sud. Noi altri ce ne stavamo seduti in semicerchio a guardarlo, tutti vestiti secondo il codice d'abbigliamento previsto dal manuale. Uomini, camicia obbligatoria anche di notte. Sono proibite le magliette senza maniche, anche se indossate sotto la camicia, comprese canottiere di qualunque foggia. È obbligatorio radersi barba e baffi 7 giorni la settimana. È proibito farsi crescere le basette sotto l'orecchio. Donne, reggiseno obbligatorio a eccezione della notte. Obbligatoria la gonna fino al ginocchio o più lunga. Canottiera permessa soltanto sotto la camicetta. È obbligatorio radersi gambe e ascelle almeno 2 volte la settimana. La prima cosa da fare è capire che siete divenuti dipendenti dal sesso, da pensieri che non giungono da Dio, disse Smith. Eravamo al primo passo dei 12 previsti dal programma di Love in Action, i cui principi equiparavano i peccati di infedeltà, zoorastria, pedofilia e omosessualità a dipendenze quali alcolismo e gioco d'azzardo. In poche parole, era una sorta di alcolisti anonimi per persone affette da, come le definivano i nostri consulenti, perversioni sessuali. Poche ore prima, quando mi ero trovato da solo con lui nel suo ufficio, mi era sembrato un uomo diverso, uno Smith più gentile ed eccentrico, uno spiritosone di mezza età, pronto a ricorrere alla più sciocca delle battute pur di farmi sorridere. Mi aveva trattato come un bambino e io mi ero adagiato con gioia in quel ruolo, seppur 19enne. Mi aveva detto che ero venuto nel posto giusto, che Love in Action mi avrebbe curato, mondato dei miei peccati alla luce della gloria di Dio. L'ufficio era sufficientemente luminoso da dare forza a quel proclama. Le pareti erano spoglie, a eccezione dell'occasionale ritaglio di giornale incorniciato o del versetto della Bibbia ricamato su stoffa. Fuori della finestra c'era un appezzamento di terreno sgombro, cosa piuttosto rara in quel distretto, uno spiazzo d'erba incolta punteggiato di soffioni giallo fosforescente con le loro migliaia di soffici estremità che entro la fine della settimana avrebbero invaso la statale. «Cerchiamo di combinare diversi modelli di cura», mi aveva assicurato Smith, ruotando sulla sedia per guardar fuori. Un sole arancione si arrampicava in lontananza dietro i foschi edifici di intonaco bianco. Aspettavo che la sua luce ci colpisse, ma più guardavo, più il tempo scorreva lento. Allora mi ero chiesto se sarebbe stato così anche lì dentro. I minuti lunghi come ore, le ore come i giorni come settimane. Solo entrando nel gruppo avrei già fatto un bel passo avanti verso la guarigione, aveva detto Smith. La cosa importante da rammentare è avere sempre una mentalità aperta. Ero lì per mia scelta. A dispetto del crescente scetticismo e del desiderio segreto di fuggire via, di allontanarmi dalla vergogna che provavo sin da quando i miei avevano scoperto che ero gay. Non potevo lasciarmi tutto alle spalle, avevo investito troppo nella mia vita, nella mia famiglia e in quel Dio ormai sempre più astratto che conoscevo sin da quando ero in fasce. Dio, avevo pregato, uscendo dall'edificio e percorrendo lo stretto corridoio fino alla strada principale, con i neon che ticchettavano nelle loro griglie metalliche. Non so più chi sei, ma ti prego, dammi la forza di sopravvivere a questa cosa. Più tardi, seduto nel semicerchio intorno a Smith, ancora aspettavo che Dio si unisse a me. «Non siete diversi da ogni altro peccatore di questo mondo», disse il consulente. Teneva le braccia incrociate dietro la schiena e il corpo rigido, come se fosse legato a un palo invisibile. «Dio considera tutti i peccati allo stesso modo. Annui insieme agli altri». Il linguaggio del movimento ex-gay mi era ormai familiare, anche se la prima volta che l'avevo letto sul sito internet della struttura ero rimasto di sasso. Dicevano che l'omosessualità che avevo tentato di ignorare per tutta la vita era ormai quasi sicuramente fuori controllo, che non curandomi rischiavo di finire a trastullarmi con i cani. Per quanto col senno di poi quell'idea mi sembri assurda, all'epoca avevo poco o nulla a cui aggrapparmi. Ero giovane, avevo avuto soltanto poche esperienze fugaci con altri ragazzi e prima di entrare al college avevo conosciuto una sola persona dichiaratamente gay, il parrucchiere di mia madre, un gigante peloso che sostanzialmente incarnava il mio stereotipo di omosessuale, mi faceva tanti complimenti, spettegolava sulle colleghe, pianificava la sua favolosa festa di Natale, sfoggiando un'immacolata barba bianca già perfetta per il ruolo di babbo birichino. Il resto l'avevo imparato tramite la pantomima dei bigotti che frequentavo, quelli della congregazione che deridevano i gay, tenendo i polsi molli e sculettando in modo esagerato, trasformando il normale tono di voce in un falsetto d'avant spettacolo, oh ma non avresti dovuto, mentre raccoglievano firme per tenere il paese sgombro dai pervertiti. E poi c'erano i lampi di spandex fluorescente, il fruscio del boa di piume, un agitarsi di culi sodi a favore di telecamera. Quello che ero riuscito a carpire dalla televisione mi sembrava soltanto l'ennesima riprova che il termine gay equivalesse a scherzo della natura, grottesco. Dovete capire un concetto molto importante, disse Smith, talmente vicino che sentivo la sua voce nel petto. Ricorrerete alla fornicazione per riempire il vuoto lasciato da Dio nella vostra vita. Ero lì, non si poteva dire che non ci stessi provando. Questo è l'incipit di... grazie, ma insomma, l'applauso per l'autore, che non è qua. Questo è l'incipit di Boy Erased, Vite Cancellate, edito in Italia da Black Coffee, di Garrard Conley, che quest'anno è stato anche adattato con un film di grande successo con Nicole Kidman e Russell Crowe, che ha gareggiato anche agli Oscar, ed è la storia, è un memoir, insomma è una storia autobiografica reale, di questo giovane che viene da una famiglia evangelica del sud del mondo protestante, la Bible Belt, che decide volontariamente, fra virgolette, di sottoporsi a quelle che vengono chiamate le terapie riabilitative, cioè entri in questi college, in queste strutture, che dovrebbero guarirti dall'omosessualità e farti tornare un sano, libero, tranquillo, eterosessuale medio. Conley è riuscito a uscirne in questa sorta di veramente appunto ghetto mentale e spirituale, poi ha avuto la forza anche di raccontare la sua storia. Io per tornare a questo libro però volevo farvi fare un piccolo percorsino, vorrei tornare a più o meno un secolo fa e brevemente tratteggiare come dal tempo del processo a Oscar Wilde a oggi l'omosessualità maschile è stata raccontata in letteratura, perché è la finestra sulla quale io, insomma, mi affaccio sul mondo. Il processo Oscar Wilde, quando Wilde fu processato per gross indecency, per atti osceni, lui fu condannato a 3 anni di lavori forzati. Quando entrò in carcere cadde e si ruppe, insomma, il timpano, da cui venne un'infezione che poi di fatto è quella che l'ha portato alla morte. Il giudice che lo condannò nel momento del processo disse: io non ho mai giudicato una cosa così schifosa come il processo nel quale lei è coinvolto. Il giorno prima aveva processato una donna che aveva strangolato il suo bambino nella culla. Wilde fu portato in carcere tra gli sputi delle persone, soltanto il suo primo amante e di fatto Giovanni Evangelista, cioè Robbie Ross, ebbe la forza e il coraggio di togliersi il cappello al passaggio di Wilde, e appunto Wilde finì in carcere, e di fatto su di lui fu fatta scontare, perché oltretutto era irlandese, quindi non era neanche inglese, quindi la società vittoriana poteva colpirlo con maggiore intensità rispetto a tanti altri invece sudditi britannici, magari anche di natali più importanti. Appunto è stato il processo che di fatto ha portato alla ribalta la questione dell'omosessualità per i primi, diciamo, 20 anni del Novecento. Il caso di Oscar Wilde ha condizionato di fatto la percezione, la rappresentazione dell'omosessualità fino almeno agli anni 20. Quel processo, nel quale tra l'altro Wilde espresse alcune delle sue battute più memorabili, come quella nel quale ad esempio cercarono di fargli esprimere un giudizio su un romanzo pornografico che coinvolgeva dei chierichetti e gli fecero: ma questo è un libro immorale? Lui disse: no, è peggio, è scritto male e basta. Quel processo a Oscar Wilde, questo libro lo dimostra, dura tuttora. Non importa che ci siano, ci sono in tantissimi paesi del mondo, e anzi i fenomeni di persecuzione nei confronti dell'omosessualità in tante realtà aumentano, ma non c'è bisogno di un carcere fisico e di un processo giuridico perché le persone siano sotto processo. Il libro di Conley racconta il fatto che i primi carcerieri delle esperienze omosessuali sono gli omosessuali stessi. Nel come guardiamo noi stessi, nella totale o parziale carenza di simpatia radicale. Questo nella storia della letteratura è palese, nel senso che da sempre l'omosessualità è stata raccontata magari con forza, magari con intelligenza, magari con straordinaria intensità, regalandoci dei ritratti memorabili. Basti pensare a Vautrin in Balzac, il barone di Charlius nella Ricerca di Proust, ovviamente l'Aschenbach di Thomas Mann, sto parlando dei primi, i primi che hanno avuto la forza e l'intensità di raccontare queste cose, ma in realtà già in queste opere così potenti, così intense, così complesse, si vede la lotta progressiva e faticosa del fatto che gli omosessuali per primi è come se avessero delle narrazioni previe che sono le uniche con le quali è possibile raccontare se stessi. C'è una scena molto bella nel Morris di Forster, il grande romanzo, il grande scrittore omosessuale che ha scritto Casa Howard, Passaggio in India, nel quale il protagonista Morris rincontra Clive, il suo primo amore negli anni del college, e Clive, che ormai si considera un normale eterosessuale guarito, ha una moglie, è un uomo inserito nella società eduardiana, vedendo invece che Morris ha una relazione omosessuale, continua a dichiararsi, a vivere da omosessuale, dice: non pensavo che avresti continuato a vivere dall'altra parte dello specchio, citando l'espressione di Alice attraverso lo specchio di Lewis Carroll, cioè l'omosessualità è possibile da raccontare solo nei termini e nelle categorie di una dimensione alternativa a quella che è la vita, l'orizzonte, l'aria che tutti gli altri esseri umani respirano. Vi faccio alcuni esempi. Uno è l'indicibile, può essere espresso soltanto appunto nei termini della devianza. Il criminale, Vautrin, il grande criminale di Balzac, oppure l'altro nella dimensione del pregio, ma appunto di una alterità irrimediabile, l'artista, l'uomo che vive un'esperienza radicalmente altra da quella di tutte le altre persone. E questo appunto in Vautrin, in Thomas Mann, in Proust. L'altro è l'elemento dello strano, nel senso dell'inquietante, di un inquietante magari potente, di un mondo che attinge a dei poteri che non sono quelli di tutti, per cui ad esempio pensate Andersen, che era omosessuale e che ha raccontato nella Sirenetta lo strazio del fatto che la persona che lui amava, un suo carissimo amico, si stava sposando. Abbiamo la mascotte. C'eravamo coordinati senza esserci coordinati. Come si chiama il pesce? Quiri, va bene. Quindi appunto anche la Sirenetta di Andersen, oppure le vampire di Le Fanu. L'altra grande, non so come dire, orizzonte narrativo previo è una storia d'amore omosessuale può essere nobile, straziante, intensa, ma non può finire bene. Uno dei due deve o finisci in carcere, o finisci ammalato, o ti suicidi, esatto, o muori. Pensate al fatto che, ad esempio, come vi citavo prima, Forster, che scrisse questo romanzo negli anni 20, Morris, non lo ha lasciato da pubblicare dopo la sua morte. In Inghilterra l'omosessualità è stata appunto depenalizzata soltanto negli anni 60, non c'è in Italia già il codice napoleonico di fatto alla fine dell'Ottocento, non l'aveva pubblicato in vita perché riteneva impossibile poter pubblicare un romanzo nel quale i protagonisti alla fine vivono felici e contenti una storia d'amore. Infatti la dedica del libro è "A un tempo più felice". Non so come dire, gabbia è il fatto che comunque l'omosessuale è condannato a essere una costola della società borghese. Questo ad esempio è chiarissimo nella tragedia di fatto messa in atto, vissuta fino a quella sorta di sparagmos dionisiaco terribile che è il momento della morte di Pasolini. Pasolini, no, incarna fino a quasi, viene a dire, volutamente il fatto che l'omosessuale è un reietto, lui lo dice tante volte, che non solo, ma che non può vivere una condizione di affettività libera. Pasolini polemizzò molto con il movimento di liberazione che già in quegli anni stava facendo delle cose importantissime, sostenendo che l'omosessuale in realtà è solo innamorato di un eterosessuale che si presta a un rapporto omosessuale. No? E quindi no? Il girare con la giacca di pelle nei bagni della stazione, questi incontri fugaci no? In cui ti riesci a strappare all'altro soltanto il coito e non c'è niente altro di possibile. Questo, tra l'altro, se volete leggete le poesie di Pasolini quando Ninetto Davoli si sposò, nel quale per lui si vede proprio questo cortocircuito anche dolorosamente immaginativo. Ma in realtà a queste categorie, che ovviamente oltretutto ci hanno come sempre regalato nell'intensità della grande arte dei ritratti strazianti, straordinari, a cui tutti siamo debitori perché sono le condizioni dell'umanità, l'esperienza umana in realtà è sempre stata più vasta, più ricca, la letteratura ha avuto spesso il coraggio di raccontare anche altro, che è possibile vivere l'amore omosessuale in altre modalità, in altre declinazioni, in altre sfumature. Basti pensare che cosa successe comunque però con grande scandalo quando Gore Vidal fece un romanzo come appunto La statua di sale negli anni 50, che raccontava ancora a sua volta invece il fatto che ci fosse un normale, tra virgolette, americano medio, non particolarmente bello, non particolarmente artista, non particolarmente intelligente, che viveva anche abbastanza tranquillamente, in fondo con un'ultima serenità, la propria omosessualità. Come vi dicevo prima, però in realtà questa vastità che di fatto poi è esplosa nella narrativa a partire dagli anni 50, da quel momento in poi in qualche misura poter fare una panoramica della letteratura omosessuale è praticamente impossibile, no? David Levitt, Com Toybin, David Sedaris, ma insomma i nomi, le esperienze sono così tante, l'omosessualità è stata raccontata in maniera gioiosa, in maniera divertente, in maniera dolorosa, appunto si sono semplicemente spalancate le porte della vastità dell'esperienza umana, ma come vi dicevo, in realtà il processo di Wilde non è finito. E il processo di Wilde non è finito, il libro di Conley lo racconta e soprattutto il libro di Conley ha la forza di raccontare quel cortocircuito drammatico e fondamentale che c'è ancora in tantissime dimensioni, cioè il fatto che le religioni, soprattutto le religioni monoteistiche, le religioni organizzate, hanno nei confronti della varietà dell'esperienza sessuale tout court un cortocircuito, una sorta di letto di Procuste che gli rende, per cui l'esperienza omosessuale, proprio perché è un'esperienza sessuale, non so come dire, gratuita, che non ha nessun'altra finalità se non l'incontro tra i due partner, è costantemente, radicalmente combattuta. La cosa che mi ha impressionato è che un anno fa, quando questo libro ancora non era stato meritoriamente pubblicato da Black Coffee, ne stavo parlando una volta con Vanni Santoni, stavo raccontando la trama e mi sono reso conto a metà della conversazione che in realtà Vanni pensava che io stessi parlando di un romanzo di fantascienza distopica, perché mi ha guardato raggelato nel momento in cui ha capito che non è fantascienza il fatto che oggi nel 2019 ci siano dei posti che ti devono educare a ruttare, a scoprire la importanza del pelo, le parolacce negli spogliatoi, come se tutto questo declinasse in sé l'esperienza dell'essere uomo. E questo è importante perché in questo momento, tra l'altro, secondo me, c'è una fame bruciante di semplificazioni nei confronti dell'esperienza umana e di fatto la questione dell'omosessualità, e tra l'altro ricordiamoci che noi oggi celebriamo la giornata contro l'omofobia, contro la bifobia e contro la transfobia, cioè contro tutto ciò che testimonia che l'esperienza sessuale, l'esperienza affettiva è vasta, è in realtà, secondo me, in realtà una battaglia fondamentale per gli eterosessuali, perché l'esperienza eterosessuale stessa è una cosa infinitamente più vasta di questa miserabile rappresentazione in bianco e nero. L'ultima cosa che volevo dire, prima di cedere la parola a Silvia e al suo sguardo sulla questione, è questa. C'è una frase, torniamo al processo di Wilde. Wilde in carcere scrive, secondo me, una delle più belle lettere che siano mai state scritte nella storia della letteratura, che è il De Profundis. Wilde scrive fra le lettere più belle dei tempi dell'Apostolo Paolo, e E nella lettera a Lord Alfred Douglas, che non lo andò mai a trovare in carcere, Wilde sa benissimo che cosa lo aspetterà negli anni successivi. Non potrà più tornare in Inghilterra, non vedrà più i suoi figli. Suo figlio Cyril, per la vergogna, si arruolerà volontario nella Prima Guerra Mondiale pur di morire, e difatti ci morirà. Muore in esilio a Parigi con i denti marci, abbandonato da tutti, con un'ultima memorabile frase che fu guardando la carta d'apparati orrenda dell'albergo: questa carta d'apparati e io stiamo lottando fino alla morte, uno dei due se ne deve andare, e morì. Però quando stava per uscire dal carcere, Wilde sapeva che cosa lo stava aspettando e disse: e se la vita sarà per me un problema, e lo è certamente, ebbene, anche io sarò un problema per la vita. La gente dovrà prendere una posizione di fronte a me e in questo modo giudicherà se stessa. Io l'ultima cosa che volevo dire è questa: secondo me la grande fondamentale vittoria degli ultimi anni, anche nella rappresentazione narrativa dell'omosessualità, è stata, non è che semplicemente che è stato raccontato che essere omosessuali può essere una cosa felice o che non deve essere necessariamente triste, ma si è sconfitto l'elemento fondamentale, che è non l'esperienza della solitudine. Tutti noi facciamo la sacrosanta, divina esperienza della solitudine. Chi ama sa di sentirsi solo quando ama qualcuno. La differenza è fra solitudine e isolamento. Sono due parole apparentemente simili ma radicalmente diverse. Pensate, e lo diceva Com Toibin, quanto il dramma degli omosessuali è stato per tanto tempo doversi inventare una propria tradizione, dover cercare, perché non avevi testimonianze, non eri come i cattolici perseguitati in Irlanda o gli armeni, non avevi dei precedenti, dovevi cercarteli faticosamente tra gli epigrammi greci. La cosa più drammatica e straziante è l'esperienza dell'isolamento, per poterci riconsegnare la gloria della solitudine, che appunto non vuol dire essere isolati, ma vuol dire un'altra cosa, nella gioia e nel dolore. Sono molto contento che questo si faccia qui stasera alla Polveriera, anche perché noi a Firenze, non so se sapete, ma nel Medioevo Florenzen voleva dire fare l'omosessuale, era la Los Angeles del 300, e infatti proprio in questa città Dante ci tributa al suo maestro, già nel 300, Brunetto Latini, forse i versi più belli che siano mai stati dedicati all'omosessuale, che sono: che nella mente mi è fitta e mo mi accora la buona e cara immagine paterna di voi che ad ora mi insegnavate come l'uomo sia eterna. Grazie. Ovviamente è un compito estremamente arduo prendere parola dopo Edoardo Rialti, che ringrazio per le sue bellissime parole. Pensavo di iniziare leggendo, però in realtà spiegherò perché siamo qui e perché siamo in due prima di continuare il discorso. Come potete vedere, ci sono delle piccole differenze di genere, in questo caso solo di genere sessuale, quindi maschio e femmina, ma non soltanto. Si parla quindi di omosessualità maschile. Edoardo ha parlato di omosessualità maschile, io sono qui per parlare e della rappresentazione dell'omosessualità femminile e della non rappresentazione della bisessualità. Infatti vorrei partire da un discorso che è quello appunto che Edoardo ha fatto sulla rappresentazione, sulle forme di stereotipizzazione dell'omosessuale, del crearsi una cultura, del crearsi una società. Sto vedendo in questo momento una serie molto carina che si chiama Gentleman Jack e parla di una donna nell'età più o meno nel primo Novecento che è consapevolmente lesbica, si veste da uomo con gabardine e tuba e va in giro facendo l'uomo, e questa cosa qui la fa perché per una donna omosessuale al tempo ovviamente non esisteva la possibilità di definirsi tale. Se un uomo in qualche maniera poteva essere riconosciuto tale, per la donna questo non esisteva. La bisessualità non è mai esistita, né mai esisterà, né tuttora è particolarmente rappresentata. Possiamo vederne qualche buona rappresentazione in alcune serie, per esempio penso a Transparent, una serie altrettanto bella che consiglio in cui una delle protagoniste a un certo punto ha un momento bisessuale o comunque è bisessuale, solo che è rappresentata di fatto come una persona confusa, una persona che non prende parte. Ed è per questo anche che in libri che vanno sulla scia di Boy Erased o in film che vanno sulla scia di Boy Erased è molto difficile che esistano personaggi bisessuali, perché sono quasi sempre costretti a scegliere di essere o da una parte o da quell'altra. Non c'è mai, appunto, tu sei così, devi essere in un'altra maniera, perché in qualche maniera tu sei entrambe le cose e questo non va bene. Tantissime volte io personalmente mi sono sentita dire stavo con una donna ma non ti manca, stavo con un uomo, sto con un uomo ma non ti manca. No, cioè non è così, il problema è che non è una cosa rappresentabile, nei film è forse la cosa più difficile da raccontare e quindi molto spesso si tende a ometterla. Fatta questa minuscola premessa, quello di cui vorrei parlare è la rappresentazione appunto cinematografica nelle serie TV, ma soprattutto nei film, di racconti come quello di Garrard, terapie conversive, principalmente però dal punto di vista femminile invece. Perché ovviamente, così come gli uomini risentono dell'enorme stereotipo del maschio effeminato, che quindi, come diceva Edoardo, è costretto a vestirsi in una certa maniera e comportarsi in una certa maniera, anche le donne chiaramente risentono dello stesso identico problema e dello stesso identico stereotipo. Vorrei partire da un film vecchio, dell'inizio degli anni 2000, forse anche un po' precedente, che si chiama But I'm a Cheerleader, o in italiano credo che sia stato tradotto Ragazza in gonnella, una cosa del genere. Ha come protagonista Natasha Lyonne, quella di Orange is the New Black, quella di Russian Doll, insomma, una ragazza dall'aspetto parecchio, quasi un po' animale, che colpisce molto l'attenzione. Ecco, in questo film lei è appunto una cheerleader, ed è una cheerleader assolutamente integrata con tutte le altre ragazze con cui lei ha quotidianamente a che fare. È una un po' allegrina, ha un fidanzato, se non che è attratta dalle donne. E questa cosa piano piano iniziano a notarla. La nota il suo fidanzato, che non capisce come mai lei sia così fredda quando lui le fa degli avance o la bacia, la capiscono le sue amiche, la capiscono le sue compagne cheerleader quando si accorgono che il suo sguardo tende a cadere in parti diciamo non così scontate per una ragazza con un'insistenza non così scontata. Che cosa succede? Succede quello che succede sempre in questo tipo di situazioni, almeno in America, la cosiddetta intervention, cioè tutta la famiglia e tutti gli amici acchiappano questa persona, la costringono a quella che chiamano riunione di famiglia e le dicono: te hai un problema e adesso noi decidiamo per te in che modo ti devi curare. Nel caso della protagonista di But I'm a Cheerleader succede esattamente questo: lei viene presa, schiaffata in uno di questi centri e lì inizia la medesima storia che potrebbe essere raccontata, che sarà raccontata ovviamente in Boy Erased, che sarà raccontata in un altro film di cui andrò a parlare fra un pochino. La differenza di questo film, che a me piace tantissimo e di cui consiglio veramente molto la visione, con questi altri è che questo è un film totalmente camp. Nonostante racconti una storia brutta, terribile, perché comunque si racconta di come una ragazza, tutto sommato, assolutamente normale, assolutamente adatta a vivere la vita di tutti i giorni con le sue amiche, senza nessun tipo di problema e senza neanche particolare pericolo nei confronti delle altre, sia costretta in qualche maniera a prima cancellare se stessa, e questo è uno dei punti del libro che poi leggerò, e poi a riformulare se stessa secondo una serie di canoni imposti da qualcun altro. Quindi che cosa succede? Lei tutto questo processo lo racconta, lei, la regista in realtà, lo racconta con toni esasperati, rosa, shocking, situazioni buffissime, assurde, in cui quello che viene fuori è che chiaramente nessuna delle persone che sono là dentro, che siano entrate di loro spontanea volontà o che ci siano state mandate a forza, è cambiato di una virgola. Tutto quanto è costrizione, tutto quanto è mentire a se stessi, tutto quanto è volerci credere, come dice Garrard nel libro. Lui dice: io imparo a mentire, quello che io faccio, forse se imparo a mentire così tanto, se imparo a mentire così bene a me stesso, alla fine crederò anch'io alla mia bugia, crederò anch'io di essermi convertito. Ed è questo quello che fanno questo tipo di terapie, questo tipo di posti ti smontano. E in che modo? Sì, forse meglio, grazie. Fu l'inventario morale, un altro sistema che l'IA, è l'associazione in cui si trova Garrard, aveva preso in prestito dagli alconisti anonimi, a sostituire i momenti che abitualmente dedicavo a lettura e scrittura. Ogni sera ero esortato a concentrarmi solo ed esclusivamente sulla mia impietà. Ogni sera dovevo trovare nel mio passato un esempio di comportamento peccaminoso, scriverne con profusione di dettagli, condividerlo con il gruppo e affidarmi a Dio affinché mi assolvesse. L'IM ci aiutava a individuare le nostre FI, lo sviluppo delle quali riuscivamo ormai a indicare con chiarezza attraverso le varie A, PO, S di dollaro e M dei genogrammi sulla storia delle nostre famiglie. A mia madre rivelavo pochissimo di quello che scoprivo ogni giorno all'istituto e gli accenni di terminologia specifica che mi uscivano di bocca erano troppi perché riuscissi a seguirmi. Una volta per poco non rischiò di mancare l'uscita dell'interstatale, tanto aveva la mente piena di simboli e numeri. In quale passo è l'IM? Chiese svoltando bruscamente sulla rampa d'uscita. Alla nostra sinistra c'era un centro commerciale, a destra una fila di negozietti e la luce del mattino filtrava tra le foglie di un qualche albero sparuto. In tutti e 12, risposi, col manuale aperto in grembo e i compiti sopra. Rileggevo rapidamente e mi assicuravo di non aver scritto niente di imbarazzante da condividere col gruppo. In realtà era tutto imbarazzante, dalla prima all'ultima parola. Lo scopo dell'esercizio era farci rendere conto di quanto fossero riprovevoli quei ricordi e spingerci a rimodellarli in modo che combaciassero con gli insegnamenti di Dio. Il gruppo mi avrebbe dato l'aiuto necessario affinché la transizione avvenisse senza intoppi. Quella situazione mi fece venire in mente un corso di poesia che avevo seguito al secondo semestre di college quando, ascoltando le opinioni contraddittorie dei miei compagni, avevo capito che per loro scrivere significava tirar fuori un prodotto che non offendesse nessuno, che non si schierasse mai se non con il dogma universalmente riconosciuto. Forse era quello il prezzo da pagare per entrare nel regno dei cieli. Dovevi ripulirti di tutte le idiosincrasie, le convinzioni radicate, le credenze, non porre alcun falso Dio dinanzi a lui, diventare un pezzo d'argilla facilmente plasmabile, un veicolo per la parola di Dio. La Bibbia dice chiaramente che cosa bisogna fare riguardo ai comandamenti. Il libro dei Proverbi dice: fissali sempre nel tuo cuore, appendili al collo. Se avessi potuto l'avrei già fatto, mi sarei già strappato via le costole e inciso la parola sul cuore. Ma a quanto pareva, i miei consulenti ex gay erano gli unici a possedere l'esperienza e le abilità necessarie a brandire il bisturi per quell'operazione così complicata. Questa è una cosa che appunto avviene in ogni rappresentazione di terapia riabilitativa o conversiva. Prima di tutto ci si smonta, si analizza punto per punto ogni parte del proprio passato, il rapporto con i genitori, il rapporto con la famiglia, il rapporto con gli amici, il rapporto con i parenti, il rapporto con se stesso, finché non si trova un peccato e un problema in ognuno di questi aspetti. E quello che succede chiaramente è che una persona va in crisi, perde completamente l'identità e a quel punto è facile, è più malleabile, è facile plasmarla nuovamente e cucirgli addosso un vestitino identico, una divisa come quella che ha letto Edoardo. La questione dello svuotamento, torno al discorso della femminilità, è importante anche per un'altra piccolissima questione che volevo far notare e che riguarda invece i campi di concentramento, dove chiaramente sia i gay maschi sia le donne omosessuali erano deportati ed erano internati. Con una differenza: gli omosessuali avevano il triangolo rosa che denotava la loro omosessualità, maschi. Le femmine avevano un triangolo nero che ne denotava la asocialità, ovvero le donne non avevano diritto neanche all'identità di omosessuale, per quanto condannabile. Era semplicemente una deviazione del carattere, come l'isteria, come qualsiasi altra di queste problematiche attribuite alle donne. La donna isterica deve essere prima di tutto calmata e poi resa malleabile e resa nuovamente una brava e dolce bambina. Non a caso la Natasha di Bataille Mature Leader è una ragazza assolutamente esuberante, che chiaramente non è in grado di prestarsi a quel tipo di norme e trova in un modo o un altro una via di fuga, finché alla fine non c'è una scena molto bella che ovviamente non posso raccontare, che è una scena di assoluta rottura, completamente liberatoria. Mentre invece nell'altro film di cui volevo parlare e che è uscito in contemporanea, quasi leggermente prima, a Boy Raised, e si chiama la diseducazione di Cameron Post, la situazione è raccontata in toni più cupi. Anche lei viene scoperta per sbaglio, anche lei viene costretta ad andare in uno di questi campi, che sono proprio veri e propri campi, cioè casette in campagna, lontane dai pericoli, dai vizi esterni, dove tutti quanti vivono, dove tutti quanti hanno una routine quasi militare o monastica, a determinati orari fanno le stesse attività, fanno sempre le stesse cose, in modo da essere completamente irregimentati, no? Ecco, Cameron Post, la protagonista, finisce anche lei in uno di questi campi, è una ragazzina, e siamo anche qui negli anni 90 più o meno, forse anche un po' dopo, forse anche nel 2000, ed è una ragazzina assolutamente normale anche lei, che si ritrova a vivere questa cosa per forza con assoluto ovviamente scetticismo. Anche lei ha un punto di rottura, anche lei conosce persone che soffrono per questa cosa e che si trovano in totale assoluta difficoltà per quello che sta succedendo, ma la maggior parte di questi vogliono realmente cambiare, e qui si torna al discorso del non osare dirsi quello che si è. Non si dà in qualche maniera un cambiamento finché non si accetta di essere qualche cosa, sia Cameron, sia Garrard, sia la protagonista di Bataille Mature Leader. Inizialmente vanno tutti quanti in crisi, si perdono e non riescono a ritrovarsi. Devono quasi tutti passare da una crisi, e di solito è una crisi molto grave, per alla fine riuscire a ritrovarsi e a ricostruirsi e in qualche maniera a ristabilire un rapporto con tutto quello che a forza si erano lasciati dietro, primo fra tutti appunto quello che loro erano, quello che volevano essere, e di fatto ad accettare anche un'idea non normata, non stereotipata del proprio essere, anche del proprio apparire. Qui richiudo rapidamente, tornando al discorso della bisessualità, che è considerata appunto né in un modo né in un altro, ma come si rappresenta una persona bisessuale non è né così né così, né per i maschi né per le femmine, è come sempre sarà un essere umano fatto a modo suo. Oltre a ringraziare tanto Edoardo Rialti e Silvia Costantino per questo intervento nella giornata mondiale alla lotta all'omotransfobia, lesbofobia, scusate, che brutta figura, ricordiamo che adesso sta per iniziare lo spettacolo di Eva Kruschel, che ripagherà, e niente, benvenuti, rimanete, trattenetevi, grazie di nuovo. Grazie.